Scusatemi se vi parlo ancora di guerra, ma in questi giorni mi è abbastanza difficile occuparmi d'altro. È un argomento di cui tutti dovremmo essere sazi, un tema al quale, come ci garantiscono anche i sondaggisti più reputati, finiremo quanto prima per abituarci, ma ad abituarmici che volete finora non sono riuscito. Ogni volta che apro il giornale, che ascolto la radio, riesco sempre a trovare qualcosa di cui stupirmi e un po' vergognarmi. E di questo mio stato d'animo, forse a torto ma spero di no, mi sento in obbligo di rendervi edotti. Non mi sono stupito naturalmente dei commenti ieri l'altro al discorso alle camere di Berlusconi. Erano prevedibili come il discorso stesso e chiunque abbia un minimo di pratica del teatrino politico di casa nostra avrebbe potuto anticipare l'uno o gli altri di un numero imprecisato di giorni. Ne mi hanno meravigliato un granché le omelie dei vari maestri di liberalismo che una volta tanto che l'opposizione ha fatto il suo mestiere, che è salvo equivoci quello di opporsi al governo, glielo hanno rimproverato come un errore gravissimo e una prova manifesta di responsabilità. Succede anche questo da sempre, e l'ideale di una sinistra talmente responsabile da rinnegare se stessa è uno di quelli profondamente radicati nel DNA dei nostri notisti e commentatori, che poi costoro abbiano considerato un aggravante il fatto che la mozione sul ritiro delle truppe sia stata presentata a quanto pare per secondare gli umori pacifisti dell'elettorato, conferma soltanto il fatto che la democrazia non è esattamente al centro dei loro interessi, perché in democrazia, che è un sistema in cui vige il principio della rappresentanza, secondare gli umori dell'elettorato è preciso dovere di chiunque ne abbia chiesto o intenda richiederne i voti. No, quello che mi ha stupito davvero è stata quella certa indifferenza con cui un po' tutti i giornali, a destra, a sinistra, al centro, hanno pubblicato le foto dei due specialisti americani, si chiamano così, specialisti, in festa accanto al cadavere di un prigioniero. Due immagini orribili, lo hanno scritto tutti, dimostrazione palpabile dello straordinario cinismo di quelle due mele particolarmente marce che sono, per concorde ammissione di critica e pubblico, il sergente Charles A. Grainer Jr. e l'agente Sabrina Harman, della 372esima compagnia della polizia militare dell'esercito degli Stati Uniti, due icone dell'orrore in cui non si capisce se facciano più impressione il corpo del morto, il sogghigno degli aguzzini, o quelle loro mani con i pollici alzati in segno di esultanza, ma accuratamente inguainate, come ha fatto notare la Iena del Manifesto, nei guanti di lattice antinfezione. Ma tutto sommato, a giudicare dai commenti, solo un'appendice particolarmente trucida la documentazione corrente sulle torture. Due raffigurazioni che aggiungono poco a tutte le altre che girano sulla carta stampata in internet e in TV da una decina di giorni. Anzi, è parecchio probabile che la loro diffusione sia stata in un certo senso facilitata dalle alte sfere, con l'idea di fare del sergente Grainer e dell'agente Harman i capi espiatori di questo momento difficile. Sono già stati incriminati per gli abusi ad Abu Ghraib e tutto fa pensare che vi attenda una rapida esemplare condanna che scaricherà su di loro quel biasimo che, a onore del vero, dovrebbe essere ben altrimenti distribuito. Sono considerazioni queste pertinenti e sensate, si sono lette un po' dappertutto, ma considerazioni cui pure manca qualcosa, ed è di questo che vi dicevo di essermi stupito. Nessuno che io sappia ha ancora osservato che con la tortura quelle due foto non c'entravano assolutamente niente. E, a prescindere dalle sofferenze che possono essere state inflitte in vita a quella povera salma, sembra si trattasse, per non negargli il suo nome proprio, di un Manadel Al-Jamadi morto, pensate, sotto interrogatorio intensivo, a prescindere anche da questo, i razzi macabri dei due poliziotti ci portano in un'altra dimensione, molto ma molto più inquietante di quella della violenza sui vivi. Perché vedete, la tortura ha la sua logica. Si può giustificare, io non lo faccio certo, non lo fate voi, ma qualcuno che lo fa si trova sempre, con motivi più o meno credibili di necessità. la necessità di solito di acquisire in fretta delle informazioni importanti, di stabilire dei dati certi in base a cui si potrà forse rovesciare una situazione in pericolo, si potranno salvare delle vite amiche e così via. Sì, lo so, ci hanno pensato il Verri e il Beccaria 2 secoli e mezzo fa a smontare i sofismi di questo tipo, ma c'è ancora una quantità di gente che ci crede e che purtroppo li applica. Come ha scritto molto bene sullo stesso manifesto di venerdì il professor Marco Codebo dell'Università di Los Angeles, almeno la metà degli americani, come risulta da 2 sondaggi sul sito web della CNN, non ha in linea di principio alcuna pregiudiziale contro la tortura. E questo appare in sintonia, dice, sia con la storia recente degli Stati Uniti sia con il tipo di approccio all'altro che attualmente è maggioritario da quella parte dell'oceano. È il problema, quello che lo studioso chiama effetto lettera scarlatta, perché vi ricordate, no, il romanzo di Hawthorne in cui il predicatore di durezze puritane porta sul petto il marchio dell'adulterio, l'effetto lettera scarlatta non riguarda soltanto l'America, ma coinvolge in un modo o nell'altro la nostra intera civiltà. Tutte le polizie, in Europa come altrove, rivendicano da sempre il diritto di usare la manoforte con gli inquisiti, e ben pochi governi si mostrano intenzionati a negarglielo. In materia, anzi, ricorderete come il Parlamento italiano abbia dato appena un mese fa una ben triste prova di sé. Sono cose, piacciono o meno, assodate. Ma da un morto, ahimè, informazioni non se ne possono ricavare. E allora, Dio santo, perché? Perché infierire sia pure simbolicamente su di lui, contrapponendo al suo volto spento i propri sorrisi, la propria vitalità, i propri pollici alzati? Il rispetto più o meno sincero per i corpi defunti fa parte di tutte le culture, in considerazione di quel poco o di quel tanto fate voi che accomuna nel comune destino i vivi e i morti. È l'unico ossequio che possiamo prestare alla nostra stessa umanità nel momento in cui viene meno per tornare, come si dice, alla terra. Di tutto questo, evidentemente, al sergente Greiner e all'agente Harman non potrebbe importare di meno. Il loro è un atteggiamento ludico, è un atto gratuito, assolutamente libero da giustificazioni teoriche e da finalità operative, un gesto che si inserisce in un quadro di totale indifferenza alle ragioni dell'umanità. Al minimo, ma proprio al minimo, li potremmo considerare dei perfetti razzisti, nel senso che non riconoscono alcuna dignità a chi non fa parte del sottogruppo umano o presunto tale da cui si sentono parte. Ma più probabilmente non sono neanche razzisti. Sono 2 iloti culturali, indifferenti a qualsiasi discorso di valore estraneo alla propria comunità. Il che è ancora peggio. Gli hanno insegnato a dividere il mondo tra pochi amici e infiniti nemici, sottolineando che non è che i nemici che se ne dicano siano proprio uomini come loro. Per cui, quando hanno finito di occuparsene, quando li hanno ridotto a quello stato ottimale in guerra che è quello di nemici morti, che cosa ne possano fare? Beh, ci giocano e non capiscono neanche perché non dovrebbero farlo. Saranno 2000 marce, figuriamoci, ma sarebbe anche interessante capire da dove viene il marciume.